ma per limitarmi a distinguere le due specie di pericoli che minacciano la mente e per cominciare dall'esterno. Ricordavo che spesso nella mia vita mi era già capitato, in momenti di eccitazione intellettuale, durante i quali qualche circostanza aveva sospeso in me qualsiasi attività fisica, per esempio quando, un po' brillo, lasciavo in vettura il ristorante di Rivebelle per raggiungere qualche casinò vicino, di sentire molto nettamente dentro di me l'oggetto presente del mio pensiero e di capire che il caso avrebbe potuto farsi non solo che tale oggetto non vi fosse ancora entrato, ma anche che esso venisse, assieme al mio stesso corpo, annientato. Allora me ne preoccupavo ben poco. La mia esultanza non era prudente né inquieta. Poco importava che la mia gioia finisse fra un attimo ed entrasse nel nulla. Adesso non era più così, perché la felicità che provavo non veniva da una tensione puramente soggettiva dei nervi che ci isola dal passato, ma, al contrario, da un allargamento della mente in cui si riformava, si attualizzava quel passato, dandomi, ma ahimè momentaneamente, un valore d'eternità. Avrei voluto lasciarlo in legato, questo valore, a coloro che il mio tesoro avrebbe potuto arricchire. Certo, quello che avevo provato nella biblioteca e che cercavo di proteggere era ancora piacere, ma non più egoistico, o almeno, giacché tutti gli altruismi fecondi della natura si sviluppano secondo modalità egoistiche, l'altruismo umano che non sia egoistico è sterile. È quello dello scrittore che interrompe il proprio lavoro per ricevere un amico infelice, per accettare una carica pubblica, per scrivere articoli di propaganda. D'un egoismo utile agli altri. Non provavo più l'indifferenza dei ritorni da Rivebelle. Mi sentivo accresciuto dall'opera che portavo in me, come da qualcosa di prezioso e fragile che mi fosse stato affidato e che avrei voluto consegnare intatto nelle mani cui era destinato e che non erano le mie. Adesso, sentirmi portatore di un'opera mi rendeva più temibile un incidente in cui avessi trovato la morte, temibile e persino, nella misura in cui tale opera mi appariva necessaria e duratura, assurdo, in contraddizione con il mio desiderio, con lo slancio del mio pensiero, ma non per questo meno possibile, giacché, come succede ogni giorno negli incidenti più semplici della vita, quando, mentre si desidera con tutto il cuore per un amico che dorme di non fare alcun rumore, una caraffa messa troppo sull'orlo casca dal tavolo e lo sveglia. Gli incidenti, essendo prodotti da cause materiali, possono benissimo accadere nel momento in cui volontà completamente diverse, che essi distruggono senza conoscerle, li rendono detestabili. Sapevo benissimo che il mio cervello era un ricco bacino minerario, con una distesa immensa e assai variata di giacimenti preziosi. Ma avrei avuto il tempo di sfruttarli. Ero la sola persona capace di farlo, per due ragioni. Con la mia morte sarebbe scomparso non solo l'unico minatore capace di estrarre quei minerali, ma anche lo stesso giacimento. E fra poco, al momento di tornare a casa, sarebbe bastato che l'automobile sulla quale sarei salito si scontrasse con un'altra per distruggere il mio corpo e costringere la mia mente, da cui la vita si sarebbe ritirata, ad abbandonare per sempre le idee nuove che in quello stesso momento, non avendo avuto il tempo di metterle maggiormente al sicuro dentro un libro, esso custodiva ansiosamente nella sua polpa fremente, protettiva, ma fragile. Ora, per una bizzarra coincidenza, questo timore ragionato del pericolo nasceva in me proprio quando, da poco, l'idea della morte mi era diventata indifferente. Il timore di non essere più io mi aveva fatto orrore in altri tempi, e ad ogni nuovo amore che provavo per Gilbert, per Albertine, perché non potevo sopportare l'idea che chi le amava un giorno non sarebbe più esistito, il che sarebbe equivalso a una specie di morte. Ma a forza di ripetersi, questo timore si era naturalmente mutato in una calma fiduciosa. Non era nemmeno necessario un incidente cerebrale. I suoi sintomi, sensibili per me in un certo vuoto nella testa e in un oblio di tutte le cose che non ritrovavo più, se non per caso, come quando, sistemando degli oggetti, se ne ritrova uno di cui ci si è dimenticati persino di doverlo cercare, facevano di me come un tesaurizzatore le cui ricchezze fuggissero via via dalla cassaforte bucata. Per qualche tempo vi fu un io che, disperato di perdere tali ricchezze, si opponeva ad essa, alla memoria, e presto mi resi conto che la memoria, ritirandosi, portava con sé anche quell'io. Se l'idea della morte m'aveva allora, lo si è visto, offuscato l'amore. Già da molto tempo il ricordo dell'amore mi aiutava a non temere la morte. Capivo infatti che morire non era qualcosa di nuovo, che dall'infanzia in poi ero già morto tante volte. Per prendere il periodo meno remoto, non avevo tenuto ad Albertine più che alla mia stessa vita. Potevo concepire allora la mia persona senza che vi continuasse il mio amore per lei? Ebbene, non l'amavo più. Non ero più l'essere che l'amava, ma un essere diverso che non l'amava. Avevo smesso di amarla quando ero diventato un altro. E di essere diventato quest'altro, di non amare più Albertine. Non soffrivo. E non avere più un giorno il mio corpo non poteva certo sembrarmi tanto triste quanto m'era sembrato in altri tempi non amare più un giorno Albertine. Eppure, come mi era indifferente adesso non amarla più. Quelle morti successive, così temute da un io che esse erano destinate ad annientare, così indifferenti, così dolci, una volta che s'erano verificate e chi le aveva temute non era più là per sentirle, mi avevano aiutato da qualche tempo a capire quanto poco saggio sarebbe stato aver paura della morte. Ora, proprio adesso che essa mi era da poco diventata indifferente, cominciavo di nuovo a temerla sotto un'altra forma, è vero, non per me, ma per il mio libro, al cui dischiudersi era almeno per qualche tempo indispensabile quella vita che tanti pericoli minacciavano. Victor Hugo dice: «Il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent». Io dico che è legge crudele dell'arte che gli esseri muoiano e che noi stessi moriamo, dando fondo a tutte le sofferenze, perché spunti l'erba non dell'oblio, ma della vita eterna, l'erba rigogliosa delle opere feconde su cui le generazioni verranno a fare allegramente, senza preoccuparsi di chi dorme là sotto il loro déjeuner sur l'herbe. Ho detto pericoli esterni, pericoli interni anche. Se mi salvavo da un incidente venuto dal di fuori, chissà che ad impedirmi di approfittare di una tale grazia non sopravvenisse, prima che fossero trascorsi i mesi necessari a scrivere questo libro, qualche incidente al di dentro di me, qualche catastrofe interiore. quando, fra poco, per tornare a casa, avrei attraversato i Champs-Élysées, chi mi diceva che non sarei stato colpito dallo stesso male che aveva colpito la nonna il pomeriggio in cui c'era venuta con me per quella che doveva essere la sua ultima passeggiata, senza minimamente sospettarlo, in quell'ignoranza che è di tutti noi, d'una lancetta arrivata al punto, da lei ignorato, in cui la molla sbloccata dell'orologeria sta per suonare l'ora. Forse il timore d'aver percorso quasi per intero il minuto che precede il primo rintocco dell'ora, quando questo già si prepara, forse questo timore del colpo sul punto d'esser vibrato nel mio cervello, questo timore era come un'oscura conoscenza di ciò che stava per essere, come un riflesso nella coscienza dello stato precario del cervello, le cui arterie stanno per cedere, cosa non più impossibile, della repentina accettazione della morte da parte di certi feriti, i quali, sebbene abbiano mantenuto la loro lucidità, e i medici e il desiderio di vivere cerchino di ingannarli, dicono, vedendo quello che sarà, sto per morire, sono pronto, e scrivono alla moglie per dirle addio.